Investire informati. Allora, Mauro, dillo a microfoni aperti, mi stavi dando una segnalazione. Ti stavo dicendo, di cara Deborah, che dobbiamo segnalare, dobbiamo ricordare come sempre i nostri ascoltatori che possono scriverci, telefonarci, mandarci delle email, degli sms, dei messaggi WhatsApp. Segnali di fumo, piccione viaggiatore, guardarci quello su che Facebook, esatto. Tutto quello che volete, ma insomma contattateci, lo state già facendo. Allora ricordo per tutti quanti, sms e WhatsApp a questo numero, 349-238-6666, oppure se volete chiamarci 800-24-0024 e se volete mandarci un'email, perché no, 2didenari@radio24.it. Sai tutto, quasi quasi hai vinto un libro, te lo mando. Posso rispondere anche al domandone? Fammela fare prima la domanda del giorno. Intanto possiamo dare il tema generale. Parliamo di fondi pensione, perché oggi lo avevamo già detto nelle settimane precedenti che per noi la legge sulla concorrenza, che è in vigore da fine agosto, sarebbe stata una miniera inesauribile di spunti, un serbatoio di notizie a cui attingere per molto tempo. Allora, cosa abbiamo estratto oggi dal cilindro, Mauro? Abbiamo estratto una modifica molto molto molto rilevante per i fondi pensione, per questo abbiamo chiamato non solo l'amico Marco Lo Conte ma anche Giovanni Maggi, che è il presidente di Assofondi Pensione, che abbiamo in collegamento. Buongiorno dottor Maggi. Buongiorno a voi, grazie. Perché la legge concorrenza? Allora io adesso dico con parole mie, quindi magari un po' imprecise ma elementari, diciamo così, si potrà in qualche modo anticipare, farsi dare un anticipo della rendita se uno è rimasto senza lavoro, anche se non si è ancora compiuta l'età per andare in pensione, cioè non si sono raggiunti i requisiti. Insomma, l'anticipo si può chiedere al fondo pensione di categoria, cioè il secondo pilastro, non stiamo parlando della pensione INPS, della pensione delle casse professionali, il primo pilastro, ma il secondo pilastro, quello delle fondi pensione appunto di categoria, lì si potrà chiedere un anticipo. Adesso chiediamo tutti i dettagli però. Ma non è solo questa la modifica, in realtà la legge sulla concorrenza ne ha introdotte due e l'altra novità riguarda la misura del TFR, la quantità di TFR che tu puoi dirottare ad uno strumento di previdenza complementare, ad un fondo pensione. È un tema questo molto caro ai nostri amici che ci seguono da casa, ai nostri lavoratori, perché molti aderiscono ai fondi pensione o a quelli di categoria o a quelli aperti o oppure alle forme privatistiche. E ricordiamo anche che cosa è successo nel 2005 con la riforma del TFR, quando, Marco, quante trasmissioni abbiamo fatto, ci fu il famoso semestre del silenzio assenso, in cui se tu non dicevi niente il tuo TFR automaticamente veniva trasferito integralmente nel fondo pensione. Certo. Oggi, Marco, in che misura il TFR finisce nel fondo pensione se tu non stabilisci qualcosa di contrario? Al 100%, nel senso che appunto la norma prevede che in caso di silenzio o per adesione esplicita il proprio TFR vada in un fondo pensione. Sappiamo che la percentuale di lavoratori dipendenti che hanno il TFR, che hanno aderito ai fondi pensione, è esigua rispetto al bacino complessivo, e questo crea in prospettiva dei problemi importanti per il reddito degli italiani da qui a qualche lustro, a qualche decennio. E dunque buona cosa fare in modo che i risparmiatori, che i lavoratori abbiano delle tutele adeguate quando smetteranno di andare in pensione. Per rendere più flessibile l'adesione ai fondi pensione è stato appunto studiato questo meccanismo, che demanda alla contrattazione collettiva, esatto, quindi ai parti questa sociali, è la novità della legge questa sulla è la concorrenza. Novità della legge della concorrenza, di stabilire la quota minima di TFR con cui aderire ai fondi pensione, che può essere anche il 5%, anche il 10%, il 50%. Alcune categorie in passato avevano delle quote già definite. Insomma, il tema riguarda soprattutto i lavoratori delle piccole e medie imprese, dove il TFR dei lavoratori per l'impresa costituisce un approvvigionamento di liquidità importante. Qui è difficile rinunciare, soprattutto in momenti di crisi, e dunque stabilire non il il 100% del TFR, ma una quota inferiore, aiuta il lavoratore a iniziare a costruirsi si una quota. Si dà una quota. Botta al cerchio e una alla botte, come si dice. Diciamo che questo, come la rendita, l'anticipo della rendita citata da Mauro poco fa, rappresentano due pilastri di un meccanismo che porta il fondo pensione ad essere uno strumento, sempre più uno strumento di welfare, di aiuto alla vita del lavoratore nel suo destino previdenziale, e molto meno strumento, tra virgolette, finanziario, anche infatti, se in senso lato. Perché sai, Deborah, mi sembra di cogliere in estrema sintesi che qui dobbiamo aspettarci che la pensione, quella di primo pilastro, insomma, quella che ci potrà erogare l'INPS o quella che ci potranno erogare le casse professionali, ecco, fatalmente sarà sempre più magra. Una copertina sempre più stretta, sempre più corta, ma d'altronde siamo sempre più longevi, Mauro. Bisogna che le persone capiscano anche questo, che non è che sia un dispetto che ci cade dall'alto, che ci fa qualcuno, ma è il tema che bisogna soddisfare una platea sempre più ampia di persone anziane. No? Esattamente, come il sottoscritto che vi sta parlando. Ma appunto, però, sai però, quanti due di denari devi fare ancora? Poiché appunto c'è questo allungamento della vita, e che poi si traduce anche in allungamento, in spostamenti in avanti dell'età pensionabile, è importante anche l'altra modifica che abbiamo evocato prima. Perché, Marco, precisamente la legge sulla concorrenza, la legge 124, cosa ha modificato rispetto al quadro precedente di richieste di anticipi al fondo pensione? Parli della tua amica Rita? Della mia amica Rita, sì, la rendita integrativa temporanea anticipata. Questa è la mia amica Rita, la chiamiamo così familiarmente, cara Deborah. Non so se te l'ho mai presentata. No, non ancora. Infatti sono anche un po' gelosa per la familiarità con cui parlate di questa convitata di pietra, ma me ne farò una ragione. È la nostra voce se fuori Marco campo, mi convince della spiegazione che ci darà. No, vabbè, allora è chiaro che, come dicevo, il quadro generale porta a fare in modo che i fondi pensione siano un po' più flessibili, e dunque un'anticipazione della rendita va in questa linea, così come il TFR parziale ai fondi pensione. La Rita, sostanzialmente, detto veramente in un 30 secondi, sì, perché abbiamo la borsa fra poco, adesso proprio in 30 devi farlo, un meccanismo in cui sarà possibile utilizzare il capitale accumulato durante l'adesione dei fondi pensione nella fase preliminare al pensionamento stesso, soprattutto a vantaggio di coloro i quali per diverse ragioni possano perdere il posto di lavoro a pochi anni dalla pensione, possano utilizzare quel capitale come cuscinetto per non subire un forte impatto diciamo reddituale rispetto a questo scenario. Pensate al caso degli esodati di inizio 2012, in cui molte decine di migliaia di lavoratori si sono trovati senza pensione e senza lavoro e senza reddito, e con un bel tot di anni davanti prima di raggiungere il requisito pensionistico modificato dalla legge Fornero. Ecco, appunto. Rita va sostanzialmente a coprire quel buco reddituale che è estremamente utile, soprattutto in un mondo in cui il lavoro diventa sempre più flessibile, la pensione diventa flessibile e diventa sempre più importante capire bene le norme, le regole, attuarle in base alle proprie esigenze per compiere delle scelte corrette. Allora, bene. Sì, abbiamo anche Maggi, che naturalmente adesso abbiamo voluto far fare a Marco la spiegazione, l'ABC delle novità contemplate dalla legge sulla concorrenza. Adesso andremo appunto ai protagonisti e a chi deve recepire poi tutti questi cambiamenti, comunicarli anche ai lavoratori, perché questo è un passaggio importante, per cui subito dopo il nostro primo appuntamento istituzionale sentiremo anche Assofondi Pensione. Ma intanto ora arrivano le borse. Di denari. Stavo chiedendo a Mauro una cosa che in realtà ci faceva sorridere, ma in maniera molto concitata, e Marco Lo Conte, che contemporaneamente ad essere qua guarda anche la diretta su Facebook. Non mi faccio mancare niente. No, esatto. Come sei social, Marco. Esatto, ma sembravo d'altronde molto arrabbiata. No. Comunque non ce l'aveva con me. Vero. Gli ho chiesto, nel momento in cui io farò una cosa di cui stavamo parlando, ti prego fermami, dimmela, perché non la voglio fare. Marco, se ci riesco, cara Deborah, lo farò senz'altro. Gli ascoltatori adesso staranno lì a chiedersi: ma chissà di che cosa stavano parlando. Chiameremo anche Stefano per aiutarti. No, ma chiamiamo invece Giovanni Maggi, presidente di Assofondi Pensione, che penserà di essere finito in una gabbia di matti. Non è così, no, Maggi, buongiorno. Cerchiamo. Anzi, saluto Marco. che ho avuto l'occasione di vedere a un convegno a Saturnia sabato scorso. Ah, ecco, vi siete incontrati. Ci siamo già confrontati. Non vogliamo sapere altro su, io e Mauro Meazza, cosa facevate a Saturnia. Temi della previdenza. Perché parlavamo, dovete andare a parlare di previdenza a Saturnia? Si è rotta la macchina, abbiamo preso la prima uscita, e siamo trovati lì. No, avete fatto anche le terme per conservarvi quanto più a lungo possibile. E così sfruttare i fondi pensione. Perché? Perché, caro Maggi, effettivamente risultano quasi 8 milioni a fine 2016 gli italiani che hanno sottoscritto un fondo di previdenza complementare. Allora, parliamo solamente di fondi pensione, però. Sì. Credo. Allora, sì, parliamo di fondi pensione negoziali, che sono quei 36 fondi che aderiscono ad Asso Fondi Pensione, perché poi c'è tutto il mondo dei fondi previdenziali che le forme proprio privatistiche, assicurative. Asso Previdenza. Sì. Allora, io ho sentito un attimino quello che avete detto e mi sembrava giusto sottolineare alcuni aspetti. Allora, il primo riguarda un po' l'approccio diverso della politica verso il mondo del secondo pilastro, nello specifico verso il mondo dei fondi pensioni negoziali, perché fino a poco tempo fa, fino al 2016, non eravamo molto soddisfatti di quello che facevano, perché hanno aumentato per esempio la tassazione sui rendimenti dei fondi pensioni, c'era la possibilità di ottenere il TFR in busta paga, non c'era una giusta attenzione al tema degli investimenti, che per noi come associazione focale è nell'economia reale. Poi c'è stato un cambio di passo positivo nel 2017, prima con la legge di bilancio, come diceva prima Marco, con la Rita, e poi soprattutto con il DDL concorrenza, il numero 124, che poi è stato approvato il 4 agosto ed è entrato in vigore il 29 agosto di quest'anno. La sa Maggi, la legge sulla concorrenza. Bene. Sì, e questo ci fa sperare in un aumento, un punto focale per noi, che è l'aumento poi comunque delle L'obiettivo adesioni. L'obiettivo è quello, stimolare le adesioni, hanno detto, ma in che maniera? Anche perché, forse non lo sapete, ma Asso Fondi Pensione con i suoi 36 fondi associati ha circa 2 milioni e 500 mila soci, il mercato potenziale è di 12 milioni, quindi c'è un grandissimo mercato potenziale che dovremmo tentare di conquistare, certo. Infatti, e questo DDL concorrenza ci ha messo nelle condizioni di partire da una posizione un pochettino più favorevole rispetto al passato. Ma quali sono le categorie più difficili da raggiungere? Parlava Marco Lo Conte prima, allora, della platea della piccola e media impresa e lavoratori, certo, della piccola impresa in particolare. Allora, il problema, io devo dire che in linea generale siamo soddisfatti per l'attività dei fondi pensione, di quello che sta facendo l'associazione. Ci sono grossi margini chiaramente di miglioramento. Il problema chiave per l'ampliamento del numero dei soci, che quindi poi porterebbe anche dei benefici per quanto riguarda il patrimonio poi da gestire di tutti i soci di Asso Fondi Pensione, che attualmente è sui 46 miliardi di euro, poi vi spiegherò magari anche quanto e dove è investito. Allora, i problemi sono diversi. Allora, il primo è la grande difficoltà, soprattutto per il sindacato, di raggiungere i lavoratori delle piccole e delle piccolissime imprese. Poi la possibilità nelle aziende con meno di 50 addetti di trattenere il TFR dei propri dipendenti, come potete ben immaginare, in un momento comunque dove chi dà credito lo dà fatica, certo, a chi serve, e viene utilizzato come un forte strumento di autofinanziamento. L'azienda non si priva di queste risorse, certamente, certo, e non informa neanche i lavoratori del fatto che avrebbero anche un'altra opportunità. È chiaro, perché si va a drenare in un momento difficile comunque del mercato una grossa fonte di autofinanziamento. Voi sapete meglio di me che il mondo del credito tradizionale, le banche, generalmente finanzia chi soldi non ha bisogno, le aziende che invece hanno bisogno di avere soldi hanno difficoltà in questa fase a trovare finanziamenti. Quindi il TFR, se rimane in azienda, è chiaramente un autofinanziamento in più per l'azienda stessa. Parliamo sempre di piccole e medie aziende. Poi, come dicevo prima, sono stati parecchi segnali contraddittori da parte della politica fino al 2016, che però, devo essere sincero, nel 2017 sono cambiati, e poi chiaramente ci sono anche degli ostacoli da un punto di vista di ordine culturale che attengono alla concezione stessa della previdenza complementare. Certo, che la pensione ce la dobbiamo costruire da noi, a noi proprio non va giù. Pubblica. E qui io mi riferisco alla legge Fornero nel 2011, perché aveva fatto credere in alcuni che la previdenza complementare sostanzialmente non fosse necessaria, pensando che il ritardato accesso alla pensione pubblica potesse determinare da sé una pensione pubblica dignitosa, sì, trascurando invece, facendo un gravissimo errore, perché ha trascurato invece i problemi derivati al ritardo ingresso nel mercato dei giovani, e sia gli aspetti legati a carriere discontinue, interrotte o contribuzione ridotta. La fermo quindi un attimo. In questa fase, sì, si sta rendendo conto invece che dopo una lunga e faticosa vita lavorativa si vorrà accedere a una pensione decorosa, dico io, non dico fantastica, non basterà il primo pilastro, quindi in ambito statale l'INPS, ma è importante andare a investire anche nel secondo pilastro, che è la previdenza complementare. E il DDL 2017 ha dato alcuni segnali positivi in questo senso, sì, in particolare… Sì. Perché, no, mi scusi Maggi, perché volevo, volevo chiedere innanzitutto per il nostro domandone, questo è un dettaglio, ma tra i fondi che voi avete, quelli più numerosi, quelli che hanno più aderenti, quali sono? Allora, il fondo più importante, per capirlo, su un diciamo panel complessivo di 12 milioni di euro, di 12 milioni, pardon, di potenziali iscritti, noi ne abbiamo 2.500.000. Il fondo più grande, che lo conoscerà sicuramente, il fondo dei metalmeccanici Cometa, che ha 400.000 iscritti. Ecco. Sono un po'... Poi c'era una, lei diceva di queste fasi che ci sono state nella politica, effettivamente allora con la legge Fornero noi abbiamo avuto forse l'impressione, assolutamente sbagliata, che quell'intervento di ritardo per ritardare l'andata in pensione rimediasse tutti i mali, non era così, era solo per mettere in sicurezza i conti dello Stato in quella fase. Le condizioni in cui quella misura fu presa non erano proprio della massima Poi c'è stata la fase di stimolo dei consumi. 2011, quindi capiamo... Anche certo. Gli stress che aveva il paese in quel periodo. Esatto, poi più avanti c'è stata la fase di stimolo dei consumi, allora il bonus degli 80 euro, ma anche fatevi dare il TFR subito così lo spendete e rialziamo un po' i consumi interni, esatto. Cosa che ancora però si fa fatica a fare pure oggi. L'ultima fase, quella attuale invece, è quella di tornare a cercare di convincere gli italiani che è meglio, è più prudente mettere da parte qualcosa anche accanto alla pensione di base. Infatti, per avere poi con la pensione complementare quel surplus che ti permetterà tra 10, 20, 30 anni di avere una pensione decorosa, come dicevo in precedenza. Quindi il DDL concorrenza ha fatto delle cose intelligenti. Il provvedimento ha dato la possibilità, sulla base degli accordi e contratti collettivi aziendali, di destinare ai fondi pensione una quota percentuale di TFR non più del 100%, quindi incentiva comunque l'iscrizione, perché uno può decidere di dare una percentuale inferiore. C'è la possibilità di riconoscere una rendita pensionistica anticipata, anche questo è un aspetto importante, anche fino a 10 anni rispetto al raggiungimento dei requisiti del sistema obbligatorio. E anche disoccupati da oltre 24 mesi. In realtà oggi sono 48. Dovete fare una campagna informativa molto sostenuta, Maggi. Sì, questo è un tema, se posso aggiungere, perché queste misure sono estremamente importanti per compensare, diciamo per giocare un po' in difesa e aiutare i lavoratori ad aderire. Per esempio, il TFR, aderire con una piccola porzione del TFR, libera risorse per aderire con una parte volontaria. Questa parte volontaria è deducibile, il TFR no, quindi il vantaggio è importante per il lavoratore. E c'è il contributo del datore di lavoro? Certamente, il tema è che tutto ciò funziona se poi le cose si sanno, si conoscono. Noi facciamo la nostra parte, però non siamo sufficienti per compensare questo gap. Passiamo da quelli che sponsorizzano questa industria e fai anche fatica a parlarne dal punto di vista del profilo giornalistico. Assolutamente. Perché... Guarda, in questi minuti stanno presentando a Torino l'indagine sul risparmio degli italiani. Ne parliamo domani a Due dei Denari, grazie per l'assist. Perché lì si diranno delle cose. Scusate, chiedo un attimo a tutti di fermarsi, perché appunto noi facciamo informazione di servizio e in questo momento il servizio è il traffico. Di denari. Ma quando sei bello serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Niente, non li governo più in regia. Peter Descafé è sempre più effervescente. Non lo so, avevo chiesto la sigla del domandone. No, non possiamo mandarla perché abbiamo preparato Serpente Corallo. Allora fate quello che volete, me ne posso anche andare. Recuperiamo perché abbiamo serietà. I due terzi dei Chapter 11, quindi ci sembrava carino. Un omaggio gradito, ma invece io vorrei, prima del domandone, magari Deborah, sentiamo... direi Davide da Lucca, che ci ha telefonato all'800240024. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Io vorrei chiedere se esistono differenze fiscali tra il trattamento appunto del fiscale, se uno effettua un riscatto anticipato delle proprie quote di un fondo pensione rispetto a un disinvestimento invece di quote da un fondo comune di investimento. Certo Davide. Certo, grazie Davide. Allora abbiamo diversi esperti, Marco vuoi rispondere tu? Sì, beh, la differenza è notevole, intanto per la natura, il fondo comune è uno strumento finanziario, il fondo pensione è uno strumento previdenziale, il fondo comune si accusano due tipi di fiscalità, uno sulle consistenze, così come per quanto riguarda il denaro depositato sui conti correnti in ragione dello 0,26% delle consistenze stesse, e al disinvestimento sì, l'aliquota fiscale è del 26% per quanto riguarda il fondo comune. I fondi pensione invece hanno un regime fiscale agevolato. Intanto in fase di cumulo fino a 5.164,57 euro all'anno è possibile dedurre fiscalmente i versamenti. Quindi c'è un'agevolazione in fase di accumulo, c'è un pagamento invece del 20%, prima del 20% annuo su quanto hanno reso i fondi pensione. In fase di rendita invece la tassazione è molto più bassa, certo, più bassa dei fondi comuni, perché scende al 15%, in calo fino al 9% per adesioni superiori ai 15 anni, ma è inferiore la tassazione anche e soprattutto rispetto al confronto con l'altro sfidante, ossia il conferimento del denaro nel TFR, dove la tassazione è del 23%, o del denaro che è depositato, cioè che è proveniente da reddito da lavoro, e lì si va sull'aliquota, certo, marginale. Insomma, l'agevolazione, anche se migliorabile sotto molti aspetti, è rilevante nei confronti dei fondi comuni. No, ma poi sarebbe comuni. Anche auspicabile che sia sempre la stessa per un lungo periodo, non può intervenire, per quanto ci sia stato il passo indietro, come diceva prima Maggi, migliorativo, però il tema è che l'industria del fondo pensione deve essere marmorea, secondo me, quella, perché altrimenti mandi in confusione le persone. Certo. Noi ci aspettiamo che addirittura le cose vadano ulteriormente a migliorare, per tutti i motivi che abbiamo esposto. Infatti, fin qua. Forse è il momento di sfidare i nostri ascoltatori. La sorte, vediamo, dice, se in sei minuti qualcuno risponde al domandone. Abbiamo la sigla, no? Sì. Perché noi, buongiorno, sa che lì, quel totem indimenticabile per noi che apparteniamo a certe generazioni anagrafiche. Allora, tra l'altro, per chi risponde bene, io direi che continuerei a regalare i vostri CD. Il CD dei Chapter 11, sì, dal titolo Ma ce l'avete il CD. Ottimo. La domanda qual era? Quella che abbiamo scelto? Signore e signori, vogliamo sapere oggi qual è il più grande fondo pensione chiuso, il più grande fondo pensione previdenza complementare in Italia. L'abbiamo detto, ma 5 minuti fa peraltro. Allora, SMS che potete mandare 349-238-6666, numero verde 800-24-0024, oppure scriveteci un'email. Due di denari è scritto in lettere, chiocciolaradio24.it. Non essere così buono, perché io ho sempre detto nelle passate edizioni del nostro domandone che premiamo solamente chi chiama il numero verde. Ah. Perché lo so che tu sei di manica larga, però datti una controllata. Voglio diffondere il CD. Allora, se l'obiettivo è questo, allora per oggi chiuderò un occhio. Giovanni Maggi, ritorniamo da lei. Eravamo rimasti sul tema della diffusione della cultura previdenziale. Su questo argomento c'è sicuramente molto da fare. Una platea vastissima di lavoratori da raggiungere, una platea di giovani da raggiungere, che se anche non entrano nel mercato del lavoro, sicuramente possono avere un regalino da parte di mamma e papà, magari cominciare ad accantonare in qualche forma previdenziale. Sì, sono d'accordissimo. Diciamo che il punto di vista della comunicazione, quindi di un piano di comunicazione strategica, un piano anche di educazione previdenziale, dovrebbe essere uno degli obiettivi dell'associazione, obiettivo condiviso con i ministeri, con il Ministero del Lavoro, col MEF. Io credo che sia importante, per favorire poi il maggior numero di adesioni e quindi passare da quei 2,5 milioni a 4, 5, 6, muoversi anche in quest'ottica. Devo aggiungere inoltre che nel decreto di DL concorrenza è stata fatta anche una cosa molto interessante, è stato deciso sostanzialmente di creare, e io lo vedo in maniera molto positiva, perché quando ci sono confronti, momenti di confronto, di brainstorming, fa sempre bene, un tavolo di lavoro sulla previdenza integrativa, quindi sostanzialmente al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettivi e delle preesistenti, e anche di favorire, come dicevo prima, l'educazione finanziaria previdenziale, il governo ha deciso di convocare un tavolo di consultazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. E quindi avete già una convocazione formale entro pochissimi giorni? Però il ministro Poletti nella conferenza, nel convegno al quale ha partecipato con Marco, ci ha assicurato che verrà fatto entro fine del corrente mese di settembre, dove parteciperanno la COVI, le rappresentanze sindacali, quindi datoriali, le parti istitutive e mi auguro anche le casse e i fondi pensioni, in maniera tale che quello sia il tavolo poi che possa aiutare a mettere in pista una strategia complessiva e globale per tentare di portare i massimi benefici a questo mondo del secondo pilastro, che dal mio punto di vista deve essere spinto proprio per i motivi che dicevo prima, per le difficoltà del primo, dell'INPS, in un'ottica di dare una garanzia maggiore a chi andrà in pensione tra qualche anno. Allora, qua siamo un po' in difficoltà perché abbiamo 2 minuti di tempo, dobbiamo dare la linea ad un ascoltatore che ha risposto al domandone e adesso stanno arrivando una marea di messaggi e di richieste di intervento sul tema invece principe del nostro approfondimento, il tema universo fondo pensione, per cui Mauro, come al solito, dobbiamo ritornare. Però scegliamo qualche domanda, magari per esempio su WhatsApp un amico chiede: io sono a pochi anni dalla pensione, non ho mai versato in un fondo pensione, mi conviene iniziare adesso? Marco, che ne dici? Ma sì, perché no? Cioè, rispetto ad altri strumenti di accantonamento del risparmio, il fondo pensione è trasparente, costa poco, i costi dei fondi comuni citati, prima abbiamo fatto il confronto fiscale, ma in termini di costi il fondo pensione costa dalle 5 alle 10 volte in meno, c'è un'agevolazione fiscale, insomma è possibile utilizzarlo quasi come una via di mezzo tra un conto di deposito e un piccolo salvadanaio un po' più. Quindi si può valutare. Allora, sentiamo Simone da Prato che ci dà la risposta al nostro domandone. Buongiorno Simone. Sì, buongiorno. Qual è la risposta? Cometa. Oh, molto bene, ha vinto il CD dei Chapter 11, sarà invidiato da tutti. Vi ricordiamo che non è in vendita, noi di solito lo regaliamo ai nostri spettacoli per beneficenza. No, tra l'altro ne avete uno anche a breve, se non ho visto male. Avremo, mail che circolava questa mattina subdolamente. Sabato 23 settembre a Valmadrera, via Fatebene Fratelli 1. Benissimo, ma via Madrera, ma non qui a Milano. Valmadrera, la provincia di Lecco. Di Lecco. Ottimo. Allora, sì, manca un minuto di tempo. Maggi, allora facciamo una cosa. Lei è virtualmente, ma anche praticamente, reinvitato di nuovo qui a Due di Denari per parlare di questo tema delicatissimo. Magari facciamo una raccolta di tutte le domande rimaste in sospeso da parte dei nostri ascoltatori. Non abbiamo toccato il tema rendimento. La grande area di confronto è quella con il TFR mantenuto in azienda, per cui insomma chi vince tra i due, magari ne parleremo prossimamente per valutare se anche quella è un tema, anche quello è un tema da prendere in considerazione per la scelta. Certamente, però volevo anche dare un consiglio in chiusura della nostra trasmissione: restate sintonizzati, dovete farlo sempre, ma oggi anche di più. Bravo. Perché la nostra amica Nicoletta Carbone ci parlerà della chikungunya, che non è uno scioglilingua, è una zanzara che specialmente nella zona di Roma sta provocando un certo allarme sanitario. E infatti non fanno più le trasfusioni, no? Così hanno interrotto le donazioni di sangue. Esattamente, allora c'è un grosso obiettivo problema. Salute tutti i giorni e anche grazie, oggi tra Mauro. Poco. Grazie a Giovanni Maggi, a Marco Lo Conte, allo staff in redazione, è tutto, torniamo domani, buona giornata. Due di Denari.